in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno delle aperture abbastanza simili ma poi con approfondimenti diversi, e ci sono anche tanti supplementi culturali come sempre nel weekend, quindi il mio invito è sempre dedicare magari un po' più di tempo nel weekend a questi approfondimenti. Ma cominciamo dal Corriere della Sera, che titola "Marino nel caos, sfida Renzi", il riferimento naturalmente al sindaco di Roma Ignazio Marino. Ieri è venuta fuori di nuovo, se vogliamo dire, la questione del trasporto pubblico a Roma, un po' perché ci sono stati nuovi incidenti come quello eclatante del metro che viaggiava con la porta aperta, ma perché poi piano piano veniamo a sapere, noi che non abitiamo a Roma, quanto grandi sono i problemi del trasporto pubblico lì. Oltre al colossale buco di bilancio, c'è proprio un problema, per esempio quello dello sciopero del venerdì, che è quasi una costante, e a questo è dedicato l'articolo di Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, che inizia a pagina 1 e poi è a pagina 2 e 3, ma perché gli autobus saltano una corsa all'ora. Vi leggo solo le prime righe, è un po' da mani sul volante, come direbbe Alessandro Milan, perché davvero, se Roma è la capitale d'Italia, ma è anche una capitale mondiale, una capitale europea, queste cose lasciano basiti. Domanda: in quale grande città europea già povera di linee della metro gli autobus se la prendono comoda bucando mediamente una corsa ogni 6? Risposta: Roma. E poi appunto ci spiegano Stella e Rizzo quali sono, questo è solo uno dei tanti problemi, i problemi del trasporto pubblico a Roma, che sapete è una città che ha un'estensione enorme, quindi spostarsi da una parte all'altra di Roma è molto difficile, sia con la metro, con tutti i problemi che ha, che con i mezzi di superficie. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata al viaggio in Africa di Barack Obama, che è andato in Kenya, dove lì sono le sue origini, e il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi, "Indovina chi viene a cena", e naturalmente il riferimento è al famoso film che tra l'altro è anche sapete che è un po' il leitmotiv di una trasmissione di Radio 24, quella di Valentina Furlanetto, e Obama a tavola con i suoi, la famosa, appunto, il film è quello dove gli invitati principali, "Indovina chi viene a cena", erano due sposini, solo che uno era nero e l'altro era bianca. Parliamo degli anni 60, fece molto scandalo, ma ancora adesso i matrimoni misti, per esempio, e in generale il razzismo, su cui ci sono molti approfondimenti poi sui quotidiani oggi, il razzismo in America è ancora una realtà. La Repubblica, intercettazioni, scontro sulla legge no al bavaglio, qui il titolo è diverso, il titolo principale, anche se poi naturalmente c'è il riferimento a tutto quello che è successo a Roma, e c'è anche un bellissimo articolo ripubblicato da Repubblica, che è originariamente pubblicato sul New York, un articolo di Adam Gopnik a proposito di Obama, che si intitola "Obama non fermarti, l'America va disarmata". Sapete che ieri c'è stato l'ennesimo esempio di persona che legittimamente armata con un'arma legittimamente acquistata ha fatto dei morti, e si ripropone sempre in America la questione della facilità con cui si possono possedere armi da fuoco e poi purtroppo si possono anche usare. Ma vi dicevo, il titolo principale su questa nuova legge sulle intercettazioni, che lo avete sentito anche nel GR, sta già scatenando molte polemiche. Due le analisi, una di Liana Milella, che è una delle giornaliste specializzate in cronaca giudiziaria della Repubblica, e l'altra di Claudio Tito, "La privacy del potere". Poi c'è la fotonotizia invece dedicata a quel fatto di cronaca terribile dell'esplosione della fabbrica dei fuochi d'artificio vicino a Bari, con un bilancio provvisorio di 7 morti. Naturalmente anche dall'estero molte le notizie, in particolare questo di questa alleanza inedita abbastanza, comunque, che si rafforza tra Turchia e Stati Uniti. La Turchia ha concesso alcune delle sue basi e soprattutto ha ormai preso una posizione un pochino più chiara contro lo Stato Islamico, e il titolo di Repubblica è "La Turchia bombarda l'Islamic State, l'IS, in Siria". Ma veniamo al Sole 24 Ore, che decide proprio di titolare su questi tre fatti di ieri, che sono l'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici romani, Pompei, dove sapete c'è stato uno sciopero a sorpresa che ha bloccato i turisti che aspettavano di entrare nel sito di Pompei, e poi lo sciopero dell'Alitalia, che con una modalità un po' inedita aveva preventivamente comunque cancellato il 15% dei voli. E quindi il titolo: Alitalia, Pompei, ATAC, così l'Italia si fa del male. E il commento è di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore e di sedi di fisso a Roma, quindi un cittadino romano che, oltre a essere appunto poter commentare come vice direttore, commenta anche sulla propria pelle questi fatti romani, l'arachiri dell'Italia che non vuole crescere, che tra l'altro lega poi naturalmente questi fatti romani anche alla questione dell'Italia come paese che davvero è moderno, oppure per molti versi è in un certo senso simile ai paesi dell'Unione Europea considerati più indietro, Grecia in primis naturalmente. Vi segnalo anche, che poi continua a pagina 6, di Vittorio Carlini, un'analisi su quello che è successo nelle ultime settimane alle borse cinesi. Il titolo è Il rischio del contagio cinese. Abbiamo un po' forse preso così sotto gamba o non approfondito abbastanza in generale, non il Sole 24 Ore, non le pagine economiche dei giornali, ma in generale l'opinione pubblica, questo crollo delle borse in Cina, che è avvenuto parallelamente alla crisi greca, c'entra poco, però è sicuramente un fatto economico e finanziario altrettanto rilevante. Vi leggo le prime righe dell'articolo di Vittorio Carlini, che poi trovate a pagina 6. Del crollo della borsa di Shanghai si è detto tanto, minore l'enfasi invece sul rallentamento della locomotiva cinese. Eppure l'eventuale contagio potrebbe venire proprio da lì, dall'economia reale. Ieri il PMI manifatturiero del paese del Dragone si è confermato sotto la soglia di 50, cioè il livello che separa l'espansione dalla contrazione economica. Quindi per una volta un forte segnale finanziario potrebbe essere appunto anche lo specchio di un segnale nell'economia reale. Vi segnalo anche in edicola, come ogni sabato, con il Sole 24 Ore Plus 24, che è il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, e qui l'approfondimento è agli Stati Uniti. Sapete che gli ultimi dati, anche quelli di ieri, dell'altro ieri, sui sussidi indicano che l'economia americana continua a crescere, continua a creare posti di lavoro. C'è però il problema del super dollaro, che comincia anche a fare male, a provocare anche dei licenziamenti, quindi una situazione difficile da interpretare. E quindi appunto l'approfondimento di Plus, dove corrono gli USA, la dinamica degli utili, perché questa è stagione di trimestrali, quindi stiamo anche assistendo ai successi delle grandi aziende. Avete sentito per esempio probabilmente del trimestrale di Amazon, il colosso dell'e-commerce, che per la prima volta ha utili in forte crescita, oltre a fatturato in forte crescita. Quindi la dinamica degli utili, scrive Plus, è dovuta più ai tassi che a produttività e investimenti, e quindi gli analisti attendono conferme. E poi naturalmente ci sono sempre le decisioni della Fed, della Banca Centrale Americana, che così tanto influisce sull'economia americana. Il mercato scommette sul rialzo dei tassi, il primo appuntamento è per settembre, e poi un approfondimento anche, visto che abbiamo detto settimanale di finanza e risparmio, gli strumenti per investire, come entrare al NYSE, il New York Stock Exchange, la borsa di New York, con i fondi specializzati globali e multi asset. Il Messaggero ovviamente titola su quello che sta succedendo a Roma: caos Roma, sfida Marino Renzi. Qui è appunto una vera e propria sfida, perché sindaco Marino ha dimissionato l'assessore ai trasporti in Prota, che è definito da sempre un renziano, ed è subito arrivata la risposta: mossa scorretta. E da qui questo ping pong, questa poca chiarezza nei rapporti tra il premier, che non ha mai chiaramente dimissionato, per l'appunto non potrebbe neanche farlo naturalmente, il sindaco Marino, però non gli ha mai neanche dimostrato eccessiva simpatia. L'ultima uscita è quella di 2 giorni fa, quando su di lui, su Marino e sul governatore della Sicilia Crocetta, altro esponente del PD, ha detto invece abbastanza chiaramente: Renzi o governano o se ne devono andare. Però anche qui poi alle parole non sono seguiti ancora dei fatti, ma ripeto, un premier non può licenziare un sindaco o un governatore, quindi sono giochi politici abbastanza complicati, possiamo dire così. La Stampa, anche in questo caso il titolo è su Roma: Fiumicino e Pompei, il weekend nero dell'Italia. Qui la fotonotizia è appunto dei turisti in fila davanti all'entrata degli scavi a Pompei, chiusi a sorpresa, perché non era previsto, comunque non era stato annunciato con il dovuto anticipo questo sciopero. Poi in prima pagina, visto che la Stampa è il quotidiano torinese e piemontese per eccellenza, il delitto di cui avete sentito anche nel GR, il delitto di Assi, della tabaccaia, che è stato appunto l'assassino ha confessato. Il Giornale, qui c'è un approfondimento su in tema di tasse. Abbiamo sentito i proclami sulla eventuale abolizione della tassa sulla prima casa, e Secondo il giornale, però, ci sarebbe un piano segreto del governo per tassare tutte le eredità. Sapete che la tassa di successione era stata abolita da uno dei governi Berlusconi e ora, secondo il giornale, Renzi vuole introdurre l'imposta di successione per patrimoni oltre 200.000 euro. Per salvare le banche colpiscono le nostre case, scrive il giornale, e le scuole cattoliche pagheranno l'IMU. Questa è un'altra notizia che trovate un po' su tutti i giornali. C'è una sentenza della Cassazione che ha appunto decretato che anche le scuole cattoliche a oggi esenti dal pagamento dell'IMU la dovranno invece pagare. E vi segnalo poi una bella iniziativa, secondo me, del giornale. Inizia oggi, ogni giorno il giornale pubblicherà una lettera d'amore famosa o una lettera d'amore che non è famosa ma è stata scritta in tempi vicini o lontani da una persona famosa, e si comincia con una lettera che Oriana Fallaci scrisse appunto tanti anni fa, e la lettera è intitolata "Darei 20 anni per essere lì e pulirti persino le scarpe", e c'è un commento di Vittorio Feltri: "Oriana dura fuori e fragile nel cuore". La trovate le prime righe sulla prima pagina del giornale, e poi continua a pagina 17. Libero: eruzione sindacale, questo è il titolo. Sciopero all'Alitalia, passeggeri a terra, assemblea a Pompei, quindi anche in questo caso appunto tutti i fatti di ieri. Mentre la non fotonotizia, però l'approfondimento, che è illustrato da un disegno di questo disegnatore Benny, che è un po' una caricatura, in questo caso la caricatura è della Presidente della Camera Laura Boldrini, e quello che ha scoperto Libero è che ci sono dei costi astronomici alla Camera per l'elettricità, 10.000 euro al giorno, quindi uno dei tanti sprechi. Il Fatto Quotidiano, un titolo completamente diverso, un'inchiesta del Fatto sull'ENI, panico all'ENI, rischia 1 miliardo di multa dagli USA per tangenti. Questo, sapete, si sta parlando molto di questi scandali in cui sarebbe, queste tangenti anche, in cui sarebbe coinvolta, che avrebbe pagato l'ENI in alcuni dei paesi in Africa, soprattutto dove opera. È una questione molto delicata, perché come si possa relazionare con i governi locali fa parte spesso di zone grigie per queste grandi multinazionali, però ci sono molte procure che indagano su questi finanziamenti. L'Unità, che sapete, è tornata in edicola da poco, lo dico sempre perché insomma è tornata in edicola il 30 giugno ed è sempre una buona notizia quando un giornale torna in Unità. Ecco, però c'è la solita anomalia, io continuo a notarle queste anomalie sull'Unità, che credo che per reggersi sulle proprie gambe e farsi comprare in edicola dai lettori deve fare un lavoro un pochino diverso che non essere un semplice giornale di partito. Questa è la mia opinione. Il titolo è "Roma non fa la stupida". Marino licenzia i vertici del trasporto pubblico, mette in gara i servizi di bus e metro, municipalizzate si chiude un'epoca. Come si possa vedere il lato positivo di questa vicenda romana, per me resta un mistero. E c'è un'altra anomalia, secondo me, che questo è sì il titolo dell'Unità, ma i servizi sono a pagina 8 e 9, mentre a pagina 2 e 3 ci sono le, per carità, buone notizie del fatto che è stato firmato ufficialmente l'accordo con la Whirlpool, e quindi la Whirlpool continuerà ad operare in Italia. E poi, come sapete, ogni sabato, o meglio, insomma, ve lo ridico, ma l'ho notato anch'io, questo è il terzo sabato, c'è la cosiddetta, io la chiamo la posta del cuore del PD, cioè il segretario del PD Matteo Renzi, che risponde, sono due pagine, la 6 e la 7, alle lettere dei suoi lettori, dei lettori dell'Unità / elettori del PD, o magari semplicemente appunto lettori dell'Unità. Il Manifesto, il bus del desiderio, la foto è quella di Ignazio Marino con il suo simpatico zainetto sull'autobus che parla con un altro passeggero, ma naturalmente la vicenda, la cronaca, è quella quella che anche il Manifesto definisce bufera in Campidoglio. Anche l'Avvenire titola su questo, scrivendo in prima pagina "Un'Italia autosospesa, cancelli chiusi a Pompei, piloti all'Italia in sciopero, Marino chiede scusa per i trasporti e cambia il CDA". L'ultimissima prima pagina, prima della pausa per il meteo, è la Gazzetta dello Sport, dedicata a Nibali, Vincenzo Nibali, che sapete ieri insomma ha una grande performance la sua, e quindi il titolo "Il morso dello squalo". Ci risentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Dalle prime pagine passiamo alle pagine interne dei quotidiani italiani. Vi segnalo dal Corriere un'intervista di Paolo Valentino al nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni. È interessante, tocca molti temi, tra i quali l'accordo sul nucleare in Teheran, ma la parte più interessante riguarda secondo me la Libia. Sentiamo spesso, anzi tutte le volte che si parla di immigrazione, viene tirata in ballo la Libia come paese principale da cui partono i barconi degli scafisti. Si dice bisogna fare qualcosa lì. E allora proprio Paolo Valentino chiede a Paolo Gentiloni: la situazione politica libica è in evoluzione, quali sono i prossimi passi? La trattativa condotta da Bernardino León, risponde Gentiloni, Bernardino León è l'inviato speciale dell'ONU in Libia, è giunta a una fase decisiva. La cornice d'intesa è stata siglata da una significativa maggioranza di attori. Lo sforzo è ora di consentire la partecipazione del General National Congress di Tripoli, vista che nei suoi confronti esponenti oltranzisti esercitano pressioni e minacce per impedirlo. Chi si ostina su posizioni oltranziste avrà una risposta dura dalla comunità internazionale in termini di isolamento e sanzioni individuali. Se il percorso proseguirà, verrà anche il momento in cui la Banca Centrale Libica potrebbe collaborare, escludendo dai propri finanziamenti, oggi distribuiti a tutti, le componenti contrarie al processo. Perché sapete che quando si dice bisogna appunto trovare un accordo con la Libia, si parla un po' a vanvera, se vogliamo, perché in Libia di fatto non esiste un governo ufficiale, ne esistono due non ufficiali, o meglio, uno riconosciuto dalla comunità internazionale con cui sta dialogando Bernardino León, e l'altro appunto che è espressione di molte altre forze politiche e sociali, ma anche di gruppi estremisti. Perciò la situazione è molto complicata e finché non si risolve questo nodo, come dice Gentiloni, è difficile pensare ad altro. Facciamo un salto di leggerezza, restiamo sul Corriere. C'è una bella intervista a Laura Biagiotti, perché Laura Biagiotti è una delle stilisti più famosi italiane. Pensate, la sua maison celebra addirittura 50 anni, sono tanti, quest'anno ne ha celebrati 40 Armani. Insomma, i nostri stilisti cominciano a avere, rispetto per esempio a quelli francesi che hanno ancora più tradizione dei nostri, cominciano a avere veramente un grande peso nella storia della moda. E in questa la sintesi di questa intervista fatta da Flavia Fiorentino e voglio vestiti intelligenti. Dice: ho sempre pensato che la moda fosse come un circo dove ci sono i domatori, i giocolieri e i trapezisti. Dicevamo all'inizio, facciamo sempre un po' di salto tra alto e basso, tra leggero e meno leggero, ma questo è il mondo, questo sono soprattutto i giornali. Dicevamo di Barack Obama e del fatto di cronaca di ieri. Ieri c'è stato un uomo che è entrato in un cinema in Louisiana, ha sparato e sono morte due persone, e l'articolo di Adam Gopnik, quindi a pagina 17 della Repubblica trovate la cronaca di questo fatto e poi il commento di Adam Gopnik, che è un giornalista che scrive abitualmente per il New Yorker, con cui la Repubblica ha un contratto e quindi traduce, perché che le permette di tradurre alcuni degli articoli. Questo è intitolato L'ossessione delle armi, l'ultimo tabù americano. Nel Connecticut, da quando sono stati introdotti i limiti all'acquisto di armi, per esempio, ricorda Gopnik, gli omicidi sono crollati del 40%. Però questa è appunto sono leggi che vanno introdotte stato per stato. Obama ne vorrebbe una a livello nazionale, ma non per ora il Congresso non ci sente assolutamente. Però appunto Gopnik spiega, dati alla mano, che dove il controllo delle armi viene introdotto, questi omicidi, soprattutto come questo nel cinema della Louisiana, diminuiscono. Dalla Repubblica, da R Club, il supplemento del sabato della Repubblica, una bellissima intervista di Guido Andruetto a José Carreras, uno dei più grandi cantanti lirici viventi, che spiega: con il calcio torno bambino, perché scopriamo che il tenore spagnolo ha una sconfinata passione per il Barcellona, e quindi naturalmente anche qui un giusto mix di, se vogliamo, cultura alta e cultura popolare. Il calcio veramente è una grande collante sociale. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un bellissimo reportage di Paolo Bricco da Taranto, che cerca di spiegarci la questione dell'Ilva, che ogni giorno si arricchisce di un capitolo di cronaca, ma naturalmente affonda le sue radici soprattutto nelle tappe degli ultimi 3 anni. E da qui appunto il titolo: i 3 anni che hanno affondato Taranto, le gestioni commissariali e gli scontri tra potere. Una società solida, era una delle acciaierie più importanti d'Europa, finisce sull'orlo del baratro. E c'è, oltre al reportage appunto di Paolo Bricco, e che tra l'altro è solo la prima di 2 puntate, c'è anche uno schema che ci spiega le tappe salienti della vicenda. A proposito di tutto quello che si dice su come la vicenda greca dovrebbe servire ad aprire un dibattito, a cambiare alcune regole europee, vi segnalo a pagina 18 del Sole 24 Ore un articolo di Sergio Fabbrini: nuova governance dell'Europa, servono strumenti centralizzati di controllo dei bilanci dei paesi. Naturalmente sapete che uno dei temi è che appunto su alcune questioni c'è ancora sovranità completamente nazionale, e questa nuova governance, per esempio, potrebbe riguardare sembrare l'unificazione di alcune direttive, ma vedremo, insomma, se innanzitutto se il dibattito si aprirà a Bruxelles, perché sui giornali tanti professori e esperti ne stanno parlando, ma vediamo se Bruxelles raccoglierà questo appello. Bruxelles e tutte le altre sedi in cui si discutono le riforme europee, Francoforte, Lussemburgo, Strasburgo, dove c'è, sapete, la seconda sede del Parlamento europeo, eccetera eccetera. Vi segnalo dalla stampa pagina 3 un articolo di Mattia Feltri, perché sulla questione degli scioperi ripercorre Mattia Feltri quello che chiama il paese delle braccia incrociate, spiegandoci che dal 2009 al 2014 ci sono stati 1000 scioperi all'anno. Si rivendica tutti i giorni, ma meglio se nel weekend. E poi la stampa ha un altro approfondimento di Francesca Paci, che parte da una denuncia di Save the Children, questa onlus, che spiega come i bambini che sono rimasti vittime del sisma nel Nepal continuano a disegnare nei loro momenti così di svago il terremoto e quindi tutti i loro incubi. Ma soprattutto c'è anche, come ha denunciato Save the Children, il rischio di abusi di tutti questi bambini rimasti orfani, oltre a quello di malnutrizione, oltre a quello magari di entrare in un circuito di adozioni illegali. Un bellissimo approfondimento di Macro, il supplemento del Messaggero, su quello che viene chiamato il sogno americano dei cinesi. Sempre più giovani preferiscono studiare a Yale o Harvard, due delle più famose università americane, invece che a casa loro, e così a migliaia ogni anno ottengono il visto USA a tempo illimitato. Ci sono molti dati interessanti, come per esempio che l'80% dei visti EB5 per vivere negli USA sono stati concessi a studenti cinesi nel 2014, mentre pensate solo 10 anni fa questa percentuale era del 13%. Da Libero un dato sull'altra questione politica di ieri, cioè sapete l'addio di Denis Verdini a Forza Italia, la costituzione del suo gruppo parlamentare, tutta la questione chi lascia i partiti fuori usciti, ce ne sono naturalmente anche nel PD, i casi più famosi e più recenti sono quelli di Stefano Fassina e Civati, ma questa visione dell'addio di Verdini la trovo solo su Libero, e ci scrive Libero: l'addio a Forza Italia dei verdiniani costa a Silvio 600.000 euro, infatti le defezioni fanno diminuire i parlamentari azzurri e quindi il partito perde anche i rimborsi. E sapete che quella della questione del finanziamento dei partiti è molto importante, perché è stato di fatto, sapete, ne abbiamo parlato qualche settimana fa qui alla rassegna stampa, volendo potremmo mettere nella dichiarazione dei redditi una donazione ai partiti, ma in pochissimi l'hanno fatto l'anno scorso, quindi la fonte principale resta il finanziamento pubblico, anche se sapete è stato abolito in teoria, ma poi è tornato sotto forma di questi rimborsi. Vi segnalo dall'Avvenire che, come sempre dico, forse sono anche un po' noiosa, tiene i riflettori accesi su questioni che invece magari in altri giornali dimenticano. In questo caso è l'Ucraina. A pagina 3 un approfondimento di Mauro Mondello: l'Ucraina assetata di pace fa i conti col conflitto infinito. Ci avete dimenticati, dicono molte organizzazioni, dicono molti cittadini, perché malgrado il cessate il fuoco siglato in febbraio, le ostilità non sono concluse, con ripetuti scontri per esempio nella zona del Donbass. Lo scenario più credibile oggi è quello di uno status quo da congelare e della regione di Donetsk, sapete, quell'entità autonoma sostenuta da Mosca, però intanto il governo mette fuori legge 3 partiti comunisti, accendendo così altri focolai di dissenso. E di nuovo anche qui il Nepal torna, come ne parlava Francesca Paci partendo dai dati di Save the Children, e invece qui c'è una buona notizia, se vogliamo: 3 mesi dopo il turismo si rialza, riapre ai viaggiatori dopo il terremoto, e la Caritas, il bilancio degli aiuti mandati dalla Caritas che sono state raggiunte oltre 300.000 persone, quindi di nuovo agibili gli itinerari, forse tra i più scelti dai viaggiatori internazionali, quelli del trekking. E Padre Pius Perumana, dal quale Avvenire trae alcune di queste informazioni, dice questa gente non ha perso la speranza. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo una bella intervista a Jay McInerney, lo scrittore americano, sapete, è diventato famoso con Le mille luci di New York, ma poi ha scritto tanti altri libri, adesso per esempio ne ha scritto uno sul vino, perché è la sua passione, e quindi il titolo dell'intervista: ogni scrittore è come un vino, ma qualcuno è soltanto coca. Dall'Unità è l'ultima segnalazione che riesco a farvi, 2 pagine bellissime, con un testo di Umberto Guidoni, l'astronauta, che ci racconta questo pianeta Kepler 452 definito un vecchio cugino della Terra, sapete che sarebbe molto simile al nostro e chissà, potrebbe esserci vita. Peccato che disti alcune centinaia di anni luce, quindi sarà difficile poterlo visitare e verificare chi lo abita. Ci risentiamo, ci interrompiamo un attimo per il traffico, ci risentiamo per la rassegna europea.